Eccomi qua, non mi sento un dio, non mi sento un re. Eccomi qua, sono l'unica persona che non sa come si fa. Eccomi qua, sono sempre in giro ma non so dove andare. Non so cosa fare, non so come essere migliore per te. Come essere migliore per te. Eccoti qua, sei la mia parte infinita, l'emozione di una vita per me. E sai sempre cosa fare, sempre dove andare, sei te. Che sai sempre cosa dire, sai come essere la migliore per me, me, me. Come essere la migliore per me. Rallenta un minuto, aspettami. E dammi un secondo, fermati. Vorrei somigliarti un po' di più. Sentirmi migliore accanto a te. Ma tanto io ti seguo ancora. Eccomi qua, sono sempre io, sono sempre qua. Eccomi qua, sono l'unico straniero in questo posto di città. Eccomi qua, eccomi qua. Mi destreggio male, sbaglio le parole, mi sembra di impazzire. Se provo ad essere migliore per te. Provo ad essere migliore per te. Eccoti qua, tu sei sempre tu, tu sei sempre qua. Eccoti qua, tu sei la star della festa, tu stai e ciò come va. Eccoti qua, eccoti qua. Ti sai destreggiare, sai come parlare, mi porti da bere. Sai come essere la migliore per me. Così diversi e così uguali io e te. Rallenta un minuto, aspettami. E dammi un secondo, fermati. Vorrei somigliarti un po' di più. Sentirmi migliore accanto a te. So che siamo io e te. Io non cambio te, tu non cambi me. Viviamoci in fondo se ti va. Ritagliamoci un po' di felicità insieme. Insieme. Eccoci qua, eccoci qua. Noi siamo l'unica certezza. Non mi importa come andrà. Viviamoci in fondo se ti va. Ritagliamoci un po' di felicità. Eccoti qua, eccoti qua.